Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora più grave il bilancio della strage di San Donà, aspirata anche l'educatrice. Sono 7 i morti del gruppo che viaggiava verso Lauco. Vittime degli incidenti sul lavoro, i dati e le testimonianze nell'iniziativa nazionale a Fiume Veneto. Varsila Italia, incontro a San Dorligo tra il neo presidente e i sindacati, si ricomincia all'insegna del dialogo. La crisi energetica fa soffrire anche i supermercati. 3 chiusure nell'ultimo periodo a Udine, le associazioni di categoria chiedono interventi. Barcolana, regata tecnica, grande spettacolo, 800 barche al traguardo, la sfida nella Bora vinta da Deep Blue, primo successo di una donna al timone. Calcio, l'Udinese rimonta all'Atalanta, finisce 2-2. Sottil, questa è una squadra vera. In C, successo del Pordenone che è primo. Triestina battuta a 6° San Giovanni e crisi. Basket, Trieste cede alla Virtus solo in dirittura squadra cresciuta. Lunedì 10 ottobre, le 7:19 minuti. Buona giornata da Giampaolo Mauro e Lorenzo Garlinzoni. Apriamo con uno sguardo alla situazione del tempo. Cielo da variabile a nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia. Temperature delle 6 a Trieste 16 gradi, mare poco mosso con temperature di 21 gradi e mezzo. A Udine 16 gradi, a Gorizia 15 gradi e mezzo, a Pordenone ci sono 12 gradi e 5 decimi, nell'area montana a Tolmezzo 11 e 5, a Tarvisio 5 gradi, a Sappada 6 e mezzo, a Forni di Sopra 9 e mezzo, sul Piancavallo 5 gradi e 5 decimi, sull'Ussari e sullo Zoncolan 4 e tornando sulla costa a Lignano 17 e 5 decimi, a Grado 16 e 5 decimi, temperatura del mare 20 gradi. Cielo variabile o temporaneamente nuvoloso su tutta la regione, così le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per la giornata di oggi. Sulla costa al mattino soffierà bora moderata, dal pomeriggio brezza. In apertura la cronaca, la strage sull'autostrada 4, è morta anche la 7ª persona che si trovava sul pulmino dei disabili che venerdì ha tamponato un tir a San Donà mentre era diretto a Lauco in Carnia per una iniziativa di solidarietà. All'ospedale di Treviso, dove era ricoverata in condizioni disperate, è spirata Romina Bannini, 36 anni, educatrice della cooperativa Cuore 21 di Riccione, che aveva allacciato i rapporti con le realtà di Lauco e si occupava dell'inserimento lavorativo dei giovani con sindrome di Down. Per le 7 vittime, il paese della Carnia ha proclamato 3 giorni di lutto. Alle vittime degli incidenti sul lavoro era dedicata la giornata di ieri, contrassegnata dalle iniziative dell'ANMIL. La manifestazione nazionale si è svolta a Fiume Veneto. Ho perso mia sorella 7 anni fa, tanto che stava andando a lavorare. Sono storie di vite spezzate, di famiglie distrutte, come quella di Simona Trapani o di Lorenzo Parelli, il 18enne di Cassionsistrada, morto durante uno stage in fabbrica. Alla 72esima giornata nazionale per le vittime sul lavoro all'interno dell'azienda Klaber a Fiume Veneto, la madre di Lorenzo ha chiesto che ognuno faccia la sua parte per una vera cultura della sicurezza. I dati ANMIL parlano di un aumento del 13,8% degli incidenti sul lavoro nei primi 8 mesi dell'anno. Su scala nazionale l'aumento sfiora il 40%. Il presidente nazionale ANMIL, Zoello Forni. Malgrado le norme, le leggi che sono ritenute buone leggi, però poi nel pratico si riscontrano ancora purtroppo 3 morti al giorno come 10 anni e più fa. Daniela Parpinella ha perso una mano in un incidente sul lavoro. L'importanza che mettono queste regole sulla sicurezza, di ascoltarla e di metterle in pratica. Proprio perché non ci pensi, però in un momento particolare X non si sa quando, come, però se non è in sicurezza ti può capitare. Gli infortuni mortali in regione sono in calo da 16 del 2021 a 5 di quest'anno. Il presidente ANMIL di Pordenone, Amedeo Bozzer. L'idea è quella di aprire un tavolo di discussione, soprattutto ad entrare insieme ai sindacati, agli industriali e alla parte politica, entrare in questo tavolo come ANMIL, visto anche i dati che noi riusciamo a estrapolare, ma soprattutto per le nostre testimonianze. Dobbiamo cominciare a mettere i testimonial all'interno di ogni azienda e magari nelle scuole. Fiume Veneto, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. I temi del lavoro e dell'economia, vertenza Varsida, primo incontro nel pomeriggio a Trieste tra il nuovo presidente di Varsida Italia, Michele Caffagna, e le rappresentanze sindacali interne. Dei giorni scorsi, in occasione della visita allo stabilimento di Sant'Orligo della Valle di una delegazione finlandese, il messaggio distensivo arrivato dalla multinazionale. L'azienda non farà ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del Lavoro che aveva bloccato il licenziamento di 451 addetti. I prossimi passi, aveva affermato Varsila in una nota, saranno compiuti dopo aver esaminato la situazione con i sindacati, le istituzioni e le altre parti interessate, con il nuovo presidente e amministratore delegato di Varsila. Oggi dunque l'importante avvio di questo nuovo percorso. Il caro energia colpisce duramente anche i supermercati e questo aspetto del commercio che era stato risparmiato dalla pandemia. A soffrire è l'intera catena, dai negozi più piccoli agli ipermercati. A Udine tre supermercati hanno chiuso nell'ultimo mese, in allarme associazioni di categoria e sindacati che chiedono interventi urgenti. L'anno scorso in agosto abbiamo pagato una bolletta da 52.000 euro, quest'anno in agosto abbiamo pagato una bolletta da 262.000 euro a parità di consumi. Potevamo resistere un po' di mesi, adesso andremo in banca a domandare dei mutui, non si può andare avanti così. Si sfoga con rammarico Antonio Facca, socio titolare di un supermercato associato a una grande catena di un centro commerciale alle porte di Udine, denuncia la sua frustrazione e il vicolo cieco imprenditoriale in cui si ritrova a causa dei rincari in bolletta che nel settore risparmiato dalla pandemia stanno assottigliando i margini di guadagno. In centro a Udine tre associati hanno già chiuso nell'ultimo mese, altri vogliono cedere, ci racconta. Forte la preoccupazione tra chi resiste, il direttore di un supermercato del centro storico, Alfredo Vasto. Cerchiamo di tenere duro il più possibile. I rincari sono stati enormi, passiamo da bollette di 8-9 mila dell'anno scorso a siamo oltre 30 mila. Non credo che si possa superare l'inverno, perché qua stiamo parlando in questo momento di rincari di elettricità. Ma non dimentichiamoci che bisogna accendere il riscaldamento. A soffrire l'intero comparto, a prevalenza di piccole aziende, avverte Fabrizio Cicero, uno dei referenti in regione di Federdistribuzione, che in Friuli gestisce anche una catena di supermercati di un grosso marchio. Soffrono tutti in generale, i grandi e i piccoli, però naturalmente i piccoli sono quelli che in questo momento sono più a rischio chiusura. C'è chi chiude perché proprio non ce la fa e c'è chi chiude per non mangiare i risparmi di una vita. Chiudere la domenica? Beh, chiudere la domenica non è assolutamente la soluzione. I nostri punti vendita, che siano aperti al pubblico o chiusi, comunque hanno i frigoriferi, le celle, tutto acceso. Quanto si può andare avanti così? Ma credo molto poco. Ci aspettiamo un intervento importante e velocissimo da parte del governo. Solo nella sua catena di negozi associati, 500 i posti di lavoro in ballo. A preoccuparlo anche il carrello della spesa sempre più leggero e l'impennata dei prezzi che fino ad ora si è cercato di contenere, spiega. Preoccupazioni rilanciate anche dai sindacati. CGIL è pronta a chiedere cassa integrazione e salvaguardia della tenuta occupazionale. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Ritorna dopo tre anni di assenza la premiazione dei maestri del commercio, un'iniziativa del sistema Confcommercio Imprese per l'Italia. La cerimonia, durante la quale saranno premiati 42 commercianti friulani, prenderà parte anche il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli. L'appuntamento è a Moimacco alle 10.30 a Villa dei Claricini Dornpacher. A Udine invece è in programma la premiazione dell'economia e dello sviluppo promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine. Saranno consegnati riconoscimenti a 80 tra imprenditori, lavoratori e personalità. Alle 17 al Teatro Nuovo. E passiamo al caso Regeni. Oggi al Tribunale di Roma, davanti al giudice per l'udienza preliminare, comparirà il capo Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, Nicola Russo, che riferirà degli eventuali sviluppi dopo la nota inviata alle autorità egiziane in seguito all'incontro del 15 marzo scorso. Ricordiamo comunque che già lo scorso luglio la Corte di Cassazione aveva deciso lo stop al procedimento penale a carico dei quattro agenti dei servizi segreti dell'Egitto accusati di avere rapito, torturato e ucciso il ricercatore di Fiumicello. Decisione motivata dal fatto che era risultato impossibile notificare ai quattro imputati il processo a loro carico a causa della totale mancanza di collaborazione della giustizia egiziana con quella italiana. Politica regionale riprende la settimana di lavori consiliari. Questa mattina alle 10 si comincia con l'illustrazione in prima commissione della proposta di legge sull'autonomia organizzativa del Consiglio. L'esame è invece in calendario per martedì 18 ottobre. Siamo ai numeri della pandemia di coronavirus, incidenze in ulteriore aumento secondo l'ultimo bollettino regionale che parla di 833 casi su circa 4200 tamponi analizzati. Il tasso di positività è vicino al 20%, l'incidenza settimanale è di 762 casi per 100.000 abitanti. Più marcato anche l'effetto sulle ospedalizzazioni, ricoverati in terapia intensiva ieri erano 11, si torna quindi sopra quota 10 dopo 5 mesi e mezzo. In ospedale ci sono 230 pazienti positivi e anche questo è il dato più alto da quasi 2 mesi a questa parte. Le 7:28 minuti, adesso parliamo della barcolana Deep Blue e Profondo Rosa. L'imbarcazione statunitense vince l'edizione numero 54 e per la prima volta la Coppa d'autunno è sollevata da una donna, Wendy Schmidt, che era al timone del Supermax, è arrivato da oltreoceano. Arca SGR con i fratelli Benussi e Lorenzo Bressani ha strappato il Jennaker sul primo lato, in prima boa pareva tallonare i rivali ma poi ha perso gradualmente terreno chiudendo al secondo posto, al terzo Porto Piccolo. Regata spettacolare con vento generoso, anche troppo, diverse rotture ma con oltre 800 barche al traguardo, la metà di quelle che erano iscritte, e uno dei numeri che raccontano meglio il successo di questa edizione, tecnicamente tra le più riuscite. Il servizio. Veni vidi vici. Al suo debutto a Trieste, Wendy Schmidt si aggiudica la 54esima barcolana. La proprietaria e timoniera di Deep Blue transita all'arrivo a 57 minuti e 47 secondi dalla partenza, uno dei migliori tempi di sempre. Completano il podio Arca e Porto Piccolo. Bella e veloce questa coppa d'autunno con sole e bora moderata a tratti sostenuta. È la prima vittoria a stelle e strisce e la prima vittoria di una donna, la barcolana. Pronti via, partenza lanciatissima quella dei Deep Blue con Jenna che rapprua, l'unica che riesce a starle dietro, Arca tenta un angolo diverso e di conseguenza una vela di altro tipo, il Co-Zero. Proprio quando la scelta sembra pagare il colpo di scena, Arca spacca la mura della vela, poi abbandonata in acqua, la barca rallenta, il sorpasso che pareva imminente salta. Dopo la prima boa una vincente testa a testa, Arca cerca spazio, Deep Blue la marca stretta. Arca non passa, anzi comincia a perdere terreno fino al trionfo finale di Deep Blue davanti alle rive di Trieste gremite di gente. Entusiasta Wendy Schmidt. È l'evento di vela più straordinario nei 15 anni di regate con la mia squadra. Ci ha spinti fino al limite, abbiamo vinto, sono molto contenta per loro. È una città bellissima, un posto incredibile, uno dei più belli dove abbiamo mai veleggiato. Il derby tra triestini lo vince Andrea Visentini, il navigatore di Deep Blue. Battuti i fratelli Benussi di Arca, ma Gabriele non drammatizza. Complimenti ai vincitori che hanno fatto un'ottima regata, sono stati molto bravi a tenerci dietro nel lato di bolina, a marcarci stretto. Siamo contenti che ha vinto una barca comunque nuova, con una rattrice americana, che questo dà molta, molta importanza alla nostra regata. Soddisfatto Mitia Cosmina, al timone di Porto Piccolo, terza al traguardo. Per noi è una super regata dal punto di vista tattico, non abbiamo sbagliato niente, anche tecnicamente. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Una regata mozzafiato anche per le migliaia di visitatori che hanno assiepato le rive di Trieste e gli affacci del Ciglione Carsico. Con la barcolana, Trieste si conferma capitale internazionale della vela. Slovenia, Croazia, Gran Bretagna, Colombia, Stati Uniti, ma anche Piemonte, Veneto, Toscana, Sardegna, Puglia. Chiedere la provenienza degli appassionati e dei curiosi che hanno popolato Trieste per assistere alla barcolana numero 54 permette di fare un vero e proprio giro d'Italia del mondo. E da dove arrivi? Colombia. Bellissima, incredibile, con tutta questa gente. Oh my God, it's fantastic. È fantastico. Io vengo dalla California. Noi amiamo le barche, l'oceano e le persone, ma quello che fate qui è incomparabile. Sono stati tantissimi a voler assistere da terra alla festa della vela che anima ogni anno il Golfo di Trieste, in un'edizione che ha segnato la vera ripartenza dopo la pandemia. Per me è la prima volta qui, quindi è un'esperienza nuova, sappiamo che non è una gara competitiva ma più che altro è una grandissima festa. Una regata emozionante, ci aspettiamo del vento e sarà sicuramente uno spettacolo come sempre. È grande la passione, nel vedere queste barche, un bel paesaggio, perché oggi Trieste ci dà qualcosa di veramente bello. Diciamo che il vento sembra giusto per tutti, insomma, non è troppo leggero e non è troppo forte, quindi sarà una bella partenza sicuramente. E grazie al clima favorevole di questi giorni, sul Carso lo spettacolo è stato ancora più suggestivo. Sulla Napoleonica sopra Trieste, vedere sto spettacolo e emozionarsi sia arrampicando che osservando il mare. Mentre c'è la barcolana. Da quassù, dall'alto, per spiegare anche a lei come funziona, per cominciare a farla appassionare alla barca vela. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo alla cronaca. Riprenderanno questa mattina le ricerche dell'81enne scomparso da 4 giorni in Carnia. Anche ieri per tutto il giorno sono andate avanti le perlustrazioni tra i comuni di Verzegni e Secavazzo Carnico, con una 30 di uomini impegnati a battere anche le zone più impervie nell'area in cui si ritiene che l'anziano possa essersi perso. Tra Italia e Balcani, diritti ambientali, legalità e voci dal basso è il titolo dell'appuntamento organizzato da Lega Ambiente Pordenone e l'associazione Meridiano 13. Tanti i problemi ambientali che accomunano il nostro paese e la penisola balcanica, dall'inquinamento atmosferico allo sfruttamento dei fiumi, l'estrazione mineraria e petrolifera, l'obsolescenza industriale, l'erosione e la cementificazione senza scrupoli delle coste, cui si aggiunge poi il problema della legalità, spesso trascurata quando si parla di ambiente. Delle possibili soluzioni abbiamo parlato con la presidente dell'associazione Meridiano 13, Martina Napolitano. Trovare delle risposte a un quesito così complesso è veramente impossibile in questo momento. Probabilmente quello che cercheremo di fare oggi in questo piccolo convegno è cercare di illustrare qual è la situazione ad oggi, quindi anche con gli aggiornamenti sull'inchiesta che sta portando avanti Enrico Fontana, che è responsabile Osservatorio Ambiente e Legalità di Lega Ambiente, appunto esperto di ecomafia, e quindi si è molto occupato soprattutto per quanto riguarda la tratta dei rifiuti che lega l'Italia e i Balcani, e che è una tratta diciamo favorita anche dagli approcci politici diciamo miopi e inclini alla corruzione da entrambi i lati dell'Adriatico, purtroppo. E quindi trovare una risposta è qualcosa di difficile. Stasera cercheremo appunto di illustrare la situazione per quanto riguarda appunto la problematica, ma anche di raccontare quali sono alcune delle reazioni, in particolare dal basso, che sono nate in questi anni, sia nei Balcani che in Italia, e quali saranno anche altre risposte che potranno nascere in futuro per ovviare a questo problema. Ci vuole fare un esempio di una reazione dal basso a tutela dell'ambiente, dei diritti ambientali? Per quanto riguarda i Balcani, sicuramente ci sono diverse esperienze di protesta dal basso che si potrebbero citare, penso in particolare all'Albania, alla Bosnia e alla Serbia, ma non solo, in cui appunto la popolazione sia in aree urbane che anche in aree meno vicine ai centri urbani, ma più interessate direttamente dai, ad esempio, dai dissesti idrogeologici, queste popolazioni si sono organizzate per proporre delle iniziative di protesta e bloccare anche determinati progetti. In particolare penso alle centrali idroelettriche che in alcuni spazi insomma della Bosnia, penso ma anche in Albania, sono state delle costruzioni legate a schemi di corruzione da un certo punto di vista, quindi quello degli appalti eccetera, e dall'altro si sono tradotte o si stavano per tradurre in dissesti proprio all'ambiente naturale e in conseguenza anche antropologico abbastanza preoccupanti. Bilancio con grandi numeri per Casa Moderna, che ha chiuso ieri i battenti nel quartiere fieristico di Martignacco. Migliaia di visitatori per questa che rimane una delle rassegne più importanti del settore. Casa Moderna lascia il posto idealmente a un altro appuntamento particolarmente apprezzato dal 25 al 27 novembre, in programma infatti Idea Natale. Entrare nel porto di Trieste attraverso un computer per riuscire a visualizzare risorse e potenziali rischi è quello che assicura il gemello digitale, un progetto dell'Università di Trieste. Un modello tridimensionale del porto di Trieste, visualizzabile dallo schermo di un PC, che permette di prevenire incidenti, ottimizzare le infrastrutture e ridurre gli sprechi, è il gemello digitale del porto di Trieste, che diventa realtà grazie al finanziamento del PNRR, che ha assegnato a Trieste il compito di digitalizzare le tecnologie marittime. Il progetto è stato presentato al Barcolana Sea Summit. Vittorio Torbianelli, segretario generale dell'autorità portuale. Potevo vedere per esempio il mare, come è fatto sotto, o sapere come sono distribuite le temperature dell'acqua, oppure vedere come sono fatti i miei edifici, dove sono posate le infrastrutture, dove sono nascosti i tubi, come funzionano, se funzionano bene, se ci sono dei problemi. Conoscere il nostro mondo attraverso questi sistemi dell'informatica, ma anche della gestione dei grandi dati. Qualcosa è già partito? Sì, noi per esempio abbiamo iniziato a scansionare con dei software speciali i nostri edifici in modo da averli in tridimensione per poterli gestire meglio, per poterli manutenere meglio. Abbiamo anche iniziato sui fondali, peraltro in collaborazione con molte istituzioni. A coordinare il progetto l'Università di Trieste, assieme tra gli altri a OGS e SIS, allo stesso porto, la sfida è anche formare i lavoratori del futuro. Roberto Di Lenarda, rettore. Stiamo cercando di seguire e di guidare questi percorsi. Devo dire che negli ultimi anni abbiamo fatto molti passi in avanti e i nuovi ragazzi si dimostrano veramente disponibili e attenti a queste innovazioni, sia nel campo della digitalizzazione sia ovviamente della sostenibilità. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. 7:38 minuti, siamo allo sport calcio. Napoli da solo in testa alla classifica del massimo campionato dopo il successo per 4-1 a Cremona, ma l'Udinese si conferma tra le migliori, è terza con il Milan a 3 punti dai partenopei e a 1 dall'Atalanta, alla quale ieri ha strappato un meritato pareggio dopo una doppia rimonta allo Stadio Friuli. I bianconeri recuperano dallo 0-2 grazie alle reti di De Lofeu e Perez. Questa è una squadra che non molla mai, dice con orgoglio l'allenatore Sottil, ma che sa anche giocare. Il servizio. Ancora una rimonta spinta dal proprio gioco e dal pubblico. L'Udinese pareggia 2-2 con la prima in classifica, l'Atalanta avanti di 2 gol. La rete del vantaggio della squadra di Gasperini nel primo tempo con il cross di Muriel che trova la deviazione di Lookman. Nella ripresa, ai fischi del tifo friulano, Luis Muriel risponde procurandosi e mettendo a segno il rigore del doppio vantaggio. È una punizione perfetta di Deo Lofeu ad accendere le speranze del pubblico del Friuli, tutto esaurito, e di Sottil che ha poco più di 10 minuti dal termine vede la sua squadra riprendere l'Atalanta grazie alla rete di Perez di testa su cross di Pereira. Udinese a +7 sulla zona Europa. Sentiamo Andrea Sottili, il tecnico della formazione friulana. Intanto è stata una bella partita, una bellissima partita giocata veramente bene. Io credo che noi abbiamo fatto molto bene, un'altra grande prestazione anche dall'inizio, siamo stati intensi, siamo stati aggressivi, abbiamo concesso poco perché Silvestri non ha fatto una parata, abbiamo tenuto di più la palla, siamo stati molto pericolosi dentro l'area contro una squadra forte, perché l'Atalanta è una squadra forte, lo sapevamo, ma per assurdo eravamo sotto 2-0, per l'ennesima volta i ragazzi sono stati straordinari a restare sempre in partita, a seguire quello che dovevamo fare meglio delle mie indicazioni tra il primo e il secondo tempo. Chi è entrato come sempre, e questa è una grandissima forza che deve continuare, è entrato bene, ha dato ritmo, ha continuato a dare ritmo e ha alzato la qualità e siamo andati a pareggiare una partita. Peccato l'occasione di Aslan, che secondo me se andava dentro non rubavamo niente e sarebbe stata una grandissima ennesima rimonta. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E in Serie C nuova vittoria per il Pordenone che supera 2-0 l'Arzignano Valchiampo, finora imbattuto. In gol dopo un quarto d'ora pinato su corner di Burrai e nella ripresa raddoppio di Bruscagin. Neroverdi in testa alla classifica. Male invece la Triestina che si fa rimontare e perde sul campo della Prosesto. Finisce 2-1 per i Lombardi dopo la rete alla mezz'ora di Pezzella direttamente su calcio d'angolo. A cavallo del riposo la Prosesto pareggia e sorpassa la società. È in silenzio stampa. L'allenatore Bonatti a fine partita non ha rilasciato dichiarazioni, si ipotizza il suo esonero. Ora il basket. Trieste cede solo in volata alla corazzata Virtus a Bologna, finisce 85-80 per i padroni di casa, ma la squadra di Legovic dimostra di essere cresciuta dopo l'esordio shock contro Pesaro. Questa volta tiene il ritmo degli avversari grazie a un'ottima difesa, risale da -13, addirittura sorpassa nel finale, manca solo il guizzo decisivo. La buona notizia è che la Pallacanestro Trieste sfodera una prestazione convincente sul difficilissimo campo della Virtus Bologna, riscattando in parte il pessimo avvio di domenica scorsa, la cattiva, e che perde 85-80 dopo essere stata addirittura avanti di 5 nell'ultimo periodo successivo a una rimonta. Molto diversi i valori in campo, ma sono compensati dalle motivazioni. I biancorossi giocano con il coltello tra i denti. Per le vunere, il campionato ora è un fastidio necessario tra una partita di Eurolega e l'altra. La squadra di Legovic vive di folate individuali, del resto siamo in clima barcolana. Comincia Bartley nel primo quarto con uno show di canestri davvero pregevoli. La difesa però non è adeguata alla categoria, soprattutto atleticamente. La folata che tiene in vita Trieste è nel secondo quarto di Davis, che alla consueta regia e difesa aggiunge canestri ad alta percentuale. Sotto i 12 al riposo subisce Cordinier in avvio di ripresa, ma non molla, provando qualche bluff in difesa che paga e rimanendo così in partita. Gaines, pessimo con addirittura 9 palle perse nei primi tre quarti, si accende come con il Jennaker, segna 14 punti praticamente di fila a cavallo dei quarti finali e trascina i biancorossi sul più 5, 70-65. La classe di Bellinelli però sigla il nuovo sorpasso Virtus. Legovic va con i 5 stranieri, giustamente, e ci prova fino in fondo. A condannare la squadra triestina è un'incomprensibile scelta degli arbitri, che convalidano all'instant replay un canestro a gioco fermo dopo un errore grossolano degli stessi fischietti e danni della Virtus, l'83-77. È una mazzata e gli esterni americani stavolta sono troppo stanchi per rimettere tutto in discussione. Nel finale, 85-80, impressionante la divisione dei punti. I tre esterni USA di Trieste segnano 64 degli 80 complessivi. Ancora da rivedere invece l'apporto degli italiani. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel basket di A2, Gesteco Cividale battuta a Mantova 78-73 tra i ducali 24 punti di Pepper. Gesteco a metà classifica nel campionato guidato da Apu con Pistoia, Forlì e Cento. Nel prossimo turno Udine in trasferta, Chiusi e Cividale in casa contro Ravenna. Pallavolo Supercoppa femminile all'Itas Martignacco, il derby con la CDA Talmassons finisce 3-0. Pallanuoto Trieste qualificata per le Final 8 di Coppa Italia in programma a marzo nel girone di Ostia. Ieri gli Alabardati hanno battuto Roma 11-6. Una a due giorni di ciclocross tra le fortificazioni del Parco del Rivellino di Osoppo, dove è tornata la carovana del Giro d'Italia. 3 chilometri di percorso altamente tecnico, gare a tempo da 30 minuti, vince il più veloce ma anche chi riesce a stare più a lungo in sella. Una disciplina in cui il Friuli Venezia Giulia vanta tra i migliori atleti d'Italia, oltre che il CT della nazionale. È tornato in Friuli Venezia Giulia ed è tornato al Parco del Rivellino di Osoppo il Giro d'Italia di ciclocross, seconda delle 6 tappe della Kermesse, giunta alla 14ª edizione. Oltre 800 atleti presenti, tra agonisti e non, grandi e piccini. Matteo fa sia strada che pista che ciclocross, insomma, finché riusciamo a portare avanti tutte queste attività con il sorriso e volentieri, ben venga. Io ho corso ieri, sono arrivato quinto. E niente. Sei forte quindi? Sì. Elevato il tasso tecnico dei 3 chilometri di percorso allestito dal James Bike Team di Buia. Come sottolinea Martina Montagnier, seconda tra le allieve, uno dei podi friulani. Il punto più difficile di questo percorso sia la prima rampa, e in cui è indispensabile essere in prima posizione o comunque nelle prime, sennò si rischia di dover scendere in bici. L'evento è stato abbinato al campionato italiano di ciclocross paralimpico, che ha visto raddoppiare gli iscritti. Tra loro, in tandem con la sua guida, Emanuele Bersini, che nel 2016 ha rappresentato l'Italia a Rio de Janeiro. Prima bisogna comunque provare, bisogna memorizzare e cercare una sincronia con la guida comunque davanti, ecco. Il Friuli Venezia Giulia si conferma punto di riferimento della disciplina. A dirlo è Fausto Scotti, ex CT della nazionale di ciclocross, ruolo oggi rivestito dal suo ex compagno di squadra, l'udinese Daniele Pontoni. Friuli è stata sempre il fiore all'occhiello di questa specialità e c'è tantissimo movimento. Jessica Baldassa, presidentessa del James Bike Team di Buia. Siamo felici di quello che stiamo riuscendo a costruire e siamo anche reduci dalla mountain bike, di un titolo iridato di società e uno di Team Relay. Osoppo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle ore 7:46 minuti e quasi 55 secondi la rassegna stampa ai genitori di Lorenzo Parelli, dignità al lavoro dei giovani, il titolo d'apertura del Messaggero Veneto edizione del Friuli. Ieri la commemorazione di tutte le vittime del lavoro a Fiume Veneto, tra loro appunto anche il giovane rimasto ucciso in un fatale incidente durante uno stage in azienda lo scorso gennaio. La sicurezza sul lavoro diventi una priorità del nuovo Parlamento, l'appello dell'ANMIL. Al centro pagina lo sport con una fotonotizia sull'Udinese, grande rimonta dei bianconeri, sotto di due gol con l'Atalanta pareggiano e rischiano di vincere. Di spalla la cronaca locale, purtroppo si parla ancora di vittime della strada, Michele Marangoni, morto in un incidente due notti fa a Lestizza, stava raggiungendo degli amici in un locale a Galleriano e salgono a 7 le vittime del terribile schianto di venerdì scorso sulla A4 a San Donà di Piave con la morte appunto di Romina Bannini, 36 anni, l'accompagnatrice del gruppo di disabili che stava arrivando a Lauco. Ci spostiamo sul dorso della destra a Tagliamento, sempre Messaggero Veneto, ad Aviano ieri in oltre 4.000 da tutta la provincia per la corsa in rosa contro i tumori al seno, quindi a Spilimbergo parte la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Teatro Miotto, infine l'inaugurazione dell'area multisportiva al liceo Le Filandiere di San Vito al Tagliamento. La Barcolana domina le pagine del Piccolo e il titolo è dedicato alla vincitrice Schmidt, la prima donna, inserto speciale dedicato alla regata e a tutti i suoi aspetti, con la classifica provvisoria con diverse centinaia di imbarcazioni. Tra gli altri temi della cronaca cittadina, i primi sopralluoghi per la cabinovia, i residenti della zona interessata, scrive il quotidiano, sono in rivolta. E nella cronaca nera, gli sviluppi delle indagini sulla cosiddetta banda dei Rolex, si indaga nel giro degli intermediari. Sull'edizione di Gorizia e Monfalcone, spazio nelle pagine dedicate al capoluogo isontino, alla mobilitazione contro le truffe agli anziani. E a Monfalcone, pronto il cantiere per la demolizione della scuola Sauro. E vediamo infine il Gazzettino, iniziamo da Pordenone, anche qui l'apertura è sulla giornata di ieri a Fiume Veneto per le vittime degli incidenti sul lavoro, incidenti in forte aumento dopo la pandemia, poi un report della Corte dei Conti boccia la sanità del Friuli Venezia Giulia, manca personale sia medici che infermieri. Poi il problema delle dipendenze tra alcol, droga e gioco in provincia, sono in cura quasi 1.000 persone. Cimolai, settimana decisiva per il futuro della fabbrica, corsa contro il tempo per mettere al sicuro l'azienda dopo il buco di bilancio di 400 milioni di euro a causa di alcuni investimenti finiti male. A centropagina lo sport, la fotonotizia è tutta per il Pordenone Calcio, Ramarri in testa alla classifica di Serie C, sfatato il tabù Teghil. Ieri la vittoria casalinga contro Arzignano Valcavi Chiampo per 2-0. Per il presidente Lovisa la squadra è sulla strada giusta. Passiamo al Gazzettina del Friuli, Gazzettino del Friuli, il titolo d'apertura in prima pagina è sull'incidente mortale di Lestizza, poi anche qui tanto sport, Udinese imbattibile, Atalanta ripresa, ieri il 2-2 allo stadio Friuli e infine il basket con trasferta amara per la Gesteco Cividale che cade nel finale a Mantova. Torniamo al nostro notiziario e agli appuntamenti di oggi. Ricomincia la rassegna Noi e la storia organizzata dalla Biblioteca Comunale Pertini di Ronchi dei Legionari. Primo appuntamento questa sera alle 18:30 con la conferenza spettacolo dal titolo L'altro Pasolini, Guido, Pierpaolo, Porzus e i Turchi di Andrea Zannini e con Massimo Somaglino. E ora parliamo di educazione e di scuola perché oggi all'Istituto Malignani di Udine inizia una 3 giorni in cui saranno presentati i risultati di un progetto sperimentale sui curricoli digitali verticali, cioè i percorsi educativi focalizzati sulle materie tecnico-scientifiche e digitali progettati in maniera unitaria dalle scuole elementari fino alle superiori. Ne abbiamo parlato con l'organizzatrice dell'evento, la professoressa Maria Concetta Broccato del Malignani, che ci ha spiegato come avviene questo apprendimento verticale. Mi viene in mente la modellizzazione e mi viene in mente la parola passaggio da analogico a digitale, un focus che mette in gioco il digitale come strumento e come facilitatore per maturare esperienze negli studenti. E la modellizzazione lo pensiamo partendo dai piccolini che durante le giornate del convegno saranno attivi, anche loro faranno vedere cosa hanno fatto. L'esempio è modellizzazione di un artefatto reale e poi prototipazione di questo artefatto e stampa 3D, per esempio, che viene fatta dai piccolini con il supporto dei ragazzi più grandi delle superiori. E qui introduco anche un altro elemento che ci ha contraddistinto, ovvero la trasversalità e la verticalità anche degli studenti che sono tutor dei più piccolini. E anche questo, anche per loro stessi, è stato innovativo. Questo si chiama peer tutoring, apprendimento tra pari, e il nostro è un apprendimento tra pari in verticale tra diversi ordini di scuole. Wunderkammer Festival Algoritmi Musicali torna con un concerto a ingresso libero che premia i migliori allievi del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Tartini di Trieste in collaborazione con il Museo Teatrale Schmidl. L'ensemble Al-Em-An, formato da Anna Julia Dewald al flauto, Emanuele Francesco Ruzziere al violoncello e Alessandra Espro al clavicembalo, proporrà brani classici tra cui La Ciaccona di Benedetto Marcello e La Follia di Arcangelo Corelli alle 17.30 a Palazzo Gopcevic a Trieste. E per i concerti Notte del Timavo stasera alle 21 alla Chiesa di San Giovanni in Tuba di Duino Aurisina, il quartetto Tartini di Lubiana propone musiche di Mozart, Dvorak, Mercou e appunto Tartini. Stasera l'evento di preapertura del 25esimo Jazz and Wine for Peace Festival. Sul grande schermo torna Safety Last di Fred Neumeier con Sam Taylor, con Harold Lloyd, film muto americano del 23 con accompagnamento musicale della Zero Orchestra alle 20.30 al Kulturnidom di Gorizia. Teatro, questa mattina alle 11 all'Auditorium Concordia di Pordenone si tiene il primo di una serie di appuntamenti di teatro civile per le nuove generazioni, rassegna ideata per le scuole superiori. Il CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia porta in scena Mileva di e con Xenia Martinovic e con Mattia Cason. Assisteranno allo spettacolo 4 classi del liceo Le Filandiere di San Vito al Tagliamento e 12 classi del liceo Leopardi Maiorana per un totale di 334 studenti. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Dopo il programma in friulano alle 11.20 circa andrà in onda la prima puntata di Tra le parole e il cuore di e con Pino Roveredo e Maddalena Lubini. Tema d'esordio, l'educazione alla bellezza, uno strumento prezioso durante la fase di recupero di ragazzi e ragazze che hanno imboccato il tunnel delle sostanze. A mezzogiorno il programma musicale La Voce di Calliope. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Lorenzo Gerlinzoni, Giampaolo Mauro e Armando Mucchino, coordinamento tecnico di Viola Romanese ed Eugenio Giuffrida, collaborato in redazione Manuel Bussani. Ora le informazioni su traffico e viabilità regionali, ci risentiamo più tardi. Grazie per la vostra attenzione e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.